Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Nel 2013 il World Economic Forum ha individuato nella proliferazione di bufale e false informazioni su internet uno dei più grandi pericoli per la nostra società, mettendolo addirittura al pari del terrorismo. C'è insomma il rischio concreto che il più incredibile strumento inventato dall'uomo per condividere la conoscenza ci stia invece trascinando verso quella che potrebbe essere definita era della disinformazione. Fortunatamente però internet è anche uno straordinario strumento di indagine sociologica. Le interazioni degli utenti lasciano delle tracce. Pensiamo ai like sui profili Facebook che permettono di analizzare questi fenomeni. Ed è esattamente quello che fanno al laboratorio di Computational Social Science dell'Istituto IMT Alti Studi di Lucca, coordinato da Walter Quattrociocchi, che è in linea con noi. Buonasera. Buonasera. Allora, intanto partiamo da qui. Computational Social Science, che cos'è? È un tentativo di utilizzare i metodi fisici per studiare la sociologia. Al posto della speculazione facciamo esperimenti e misurazioni esatte. Basandosi su che cosa? Sì, sulle milioni di tracce sociali che lasciano ogni giorno gli utenti online e sono più efficaci del self-reporting, dei questionari, perché in qualche modo sono misure oggettive, sono più spontanee. Sono spontanee, completamente spontanee, mentre le compilazioni dei questionari non lo sono, possiamo dirlo serenamente. Ecco, allora, descriveci un po' meglio questo problema della disinformazione, i suoi ingredienti. Beh, come dicevi tu, nel 2013 il World Economic Forum individua questo come uno dei problemi più importanti. Perché? Perché c'è di fatto una grandissima vastità di contenuti di ogni tipo e di ogni genere a seconda dell'umore dell'utente, quindi possiamo trovare le tesi più disparate in ogni posto. E il problema della misinformation è proprio il proliferare di queste informazioni non verificate, non sostanziate, che entrano a far parte del dibattito pubblico e dell'opinione pubblica. Ci sono anche delle parole chiave, diciamo, che possiamo utilizzare per far capire questo problema. Una è analfabetismo funzionale, in realtà, che c'entra poco con internet, ma è una grave realtà con la quale dobbiamo fare i conti, anche e soprattutto in Italia. Certo, l'analfabetismo funzionale fa riferimento a quella prassi per cui l'individuo non è in grado di capire esattamente il testo che legge. Consideriamo che circa metà degli italiani hanno seri problemi a leggere un giornale, cioè sanno leggere ma non capiscono quello che leggono. Per capirci, le percentuali sono di quest'ordine. Altra parola chiave, poi magari ci dai la definizione anche in italiano, è confirmation bias. Che cosa vuol dire? Questo è un atteggiamento molto umano, diffusissimo, direi quasi universale. Sì, è il pregiudizio di conferma, ovvero la tendenza ad acquisire informazioni che confermano quello che già uno pensa, come ad esempio se uno fa una ricerca su un motore di ricerca non si rende conto che non fa una domanda, ma spesso e volentieri impone proprio già una visione, una tesi nel momento in cui fa la query. Scrive la risposta che sta cercando, che si aspetta di trovare sostanzialmente. Facci un esempio. Ma non so, per esempio cerco informazioni relative ai vaccini e ho paura che facciano male, cercherò i vaccini fanno male. Oppure cercherò vaccini autismo. No? Esattamente. Già facendo io in realtà questa correlazione, per cui poi troverò tutti quei risultati che mettono in correlazione i vaccini con l'autismo, anche se in realtà non c'è nessuna correlazione scientifica. Questo è il problema, no? Fondamentalmente. Un'altra parola chiave è echo chamber. Anche questa, traducicela in italiano e facci capire che cos'è. È la cassa di risonanza, è la figlia del confirmation bias, del pregiudizio di conferma. Seleziono informazioni coerenti con una determinata narrazione del mondo, troverò persone che condividono quella narrazione del mondo e quindi entrerò in un sistema per cui quella narrazione del mondo viene rinforzata e corroborata. Quindi verranno portate tutte le informazioni a supporto di una determinata tesi in un gruppo e verranno ignorate tutte quante le altre. Questa selezione dei contenuti definisce l'echo chamber. C'è l'echo chamber vegana, c'è l'echo chamber complottista, c'è l'echo chamber scientifica, dove praticamente le persone si riuniscono per gruppi di interesse. Ecco, una cosa che dobbiamo ricordare e tenere sempre presente è proprio il meccanismo di formazione dei ranking dei motori di ricerca, che oggi sono diventati dei potenti strumenti che influenzano l'opinione delle persone. Cioè quello che viene fuori nella prima pagina della ricerca su Google, per capirsi, è importantissimo. Certo, è un elemento che in qualche modo ci mette in evidenza e ci dà l'idea falsa che quelle siano veramente le cose importanti inerenti all'argomento. Mentre come funziona in realtà un ranking di Google, per capirsi? Il ranking di Google fondamentalmente tiene di conto una serie di indicatori, tra cui quanto la pagina è linkata, quindi quanto la pagina è popolare, per cui si innesca un meccanismo perverso per cui l'informazione che, anche se falsa, cioè a prescindere dal contenuto di verità, se è popolare sarà la prima ad essere puntata. Diciamo che il motore di fondo di tutto quanto comunque sia il pensiero religioso. Martin Bau Howard della London School of Economics fa un'ipotesi per cui il meccanismo cognitivo che si innesca nel momento in cui mi trovo di fronte a qualcosa che non conosco, la crisi finanziaria o la globalizzazione o i fenomeni di migrazione di massa, tendo a preferire una spiegazione che semplifica, che riconosce esattamente un oggetto scatenante, piuttosto che attribuire la causa a una serie di cause naturali e casuali. Ecco, perché questo ci dà la sensazione, l'impressione di poter dominare la nostra vita, di avere il controllo della situazione. Non è questo il problema di fondo? Esattamente, placa l'ansia, è un modo per placare l'ansia di controllo che un pochino abbiamo come esseri umani. Allora, ci fermiamo qui perché abbiamo finito il tempo e domani vediamo i numeri di un'analisi che voi avete fatto su 2 milioni di utenti italiani. Per intanto grazie Walter Quattrociocchi. Grazie a voi. Ci fermiamo qui, allora appuntamento a domani.